sign. Long live Gaza. All you see is war every time you turn your head at night. There's bloodshed on the floor. Mother cries, who cries for her this time? There's truth between these walls. Noi partiamo proprio iniziando parlando dei giornalisti, perché dall'Egitto c'è stata una chiamata internazionale per una carovana da far partire e far arrivare proprio a Rafah, lanciata proprio dal sindacato dei giornalisti egiziani. Ciao a chi ascolta la radio, vorrei leggere direttamente l'appello. Dal 7 ottobre la politica internazionale non è riuscita a salvare la popolazione palestinese dalla guerra israeliana di sterminio contro la striscia di Gaza e la sua popolazione. Nonostante tutti gli appelli, nessuna potenza è stata in grado di fornire ai bambini della striscia di Gaza un pezzo di pane, un sorso d'acqua o il carburante necessario per il funzionamento di ciò che rimane degli ospedali, che ogni giorno accolgono centinaia di feriti e martiri. Il bilancio ha raggiunto finora 11.078 martiri, tra cui 4.506 bambini, 3.027 donne e 678 anziani. Di fronte a questo genocidio ci rimane solo la coscienza del mondo, di quella parte di popolazione mondiale che si considera ancora libera. È a questa umanità che rivolgiamo questo appello, affinché si unisca al convoglio Coscienza del Mondo per arrivare al valico di Rafah, per 1. Fermare la guerra, 2. Fare pressione pacificamente per aprire il valico di Rafah facendo entrare tutti gli aiuti umanitari possibili, cibo, acqua, medicine e carburante, e l'uscita incondizionata dei feriti gravi. 3. Continuare a fare pressione per l'ingresso di tutto il personale medico, di soccorso, della stampa e umanitario. 4. Sostenere l'autodeterminazione della popolazione palestinese di fronte ai piani di sfollamento degli israeliani. In questo momento storico dobbiamo tutti unirci per l'umanità e per i diritti della popolazione palestinese alla libertà e all'autodeterminazione. Ogni minuto che passa la popolazione palestinese paga un prezzo inimmaginabile per aver resistito nelle sue terre. Non staremo a guardare, muoviamoci tutti ora. Il raduno e il lancio della carovana Coscienza del Mondo si terranno dal 17 al 24 novembre presso il sindacato dei giornalisti egiziani al Cairo. Per ulteriori informazioni la radio poi metterà gli indirizzi email per contattare i diretti interessati in Egitto. Diciamo che questo appello appunto è un modo per cercare di rompere l'assedio e insomma cercare di fermare questo genocidio, e quindi è rivolto a tutte le organizzazioni non governative, a medici, a giornalisti, a insomma tutte le persone anche non organizzate che decidono in qualche modo di fare qualcosa in questo momento atroce. E appunto il punto di raduno è il sindacato dei giornalisti dal 17 al 24 novembre, e poi insomma si capirà in che modo procedere andando verso Rafah. Metteremo poi le mail per i contatti sul sito di Radio Onda Rossa, così volevamo aprire con questo appello. Ci sembra insomma che l'Egitto abbia in questo momento un ruolo importantissimo, e il fatto che il sindacato dei giornalisti si muova sia un fatto sicuramente positivo.